Dei bar dorme la strada domenica, barboni in pace con Dio, ne ho visti anch'io la domenica, mi stringo nel gelo e poi giù dove si perde il mio cuore nel mal di mare in ricordo di una domenica. Oh, sorry mother, there's no place for me. Oh, sorry mother, there's no place for me. Saracinesche dei bar, è un cielo freddo domenica, urla e poi feste d'addio, lì c'ero anch'io qualche anno fa, ed oggi mi manchi di più, o forse mi manca star male, perplessità e gelosia, la mia solitudine. Oh, sorry mother, there's no place for me. Oh, sorry mother, there's no place for me. Buonanotte alle vie, buonanotte agli amori, buonanotte ai fratelli che dormono fuori, buonanotte anche a te che non sai dove andare né dove piangere. Anche a chi non c'è più, a chi porti con te nel tuo cammino, buonanotte anche a te. Siamo al telefono con Fabio Curto, che ha fatto uscire il 13 novembre il suo ultimo singolo, che si chiama La terra dei miei figli. Intanto ciao Fabio e grazie mille di essere qui con noi. Ciao, ciao a te, ciao a tutti. Dicevamo, il brano vede due collaborazioni anche piuttosto importanti e racconta anche una storia importante. Ce la vuoi descrivere un po' tu questa storia? Certo, guarda, la storia è una storia... come sempre accade, o almeno come sempre accade a me nelle canzoni, una storia per metà vera, per metà inventata, diciamo una storia arricchita, ecco, una storia arricchita preferisco si dica. Prende spunto da un trascorso appunto vero al quale mi sono ispirato, e sostanzialmente nella canzone c'è un'idea, sono diverse idee, un'idea di intanto di libertà, una vita vissuta a contatto con i cicli delle stagioni, la natura, gli alberi, la difficoltà anche di una scelta del genere, ma soprattutto ciò che emerge dalla canzone è l'importanza delle radici, che possono essere delle radici appunto che quelle che noi consideriamo radici quando pensiamo al posto dove, in cui siamo nati, ma anche radici come qualcosa che si è piantato dentro di te, che qualcuno ha piantato dentro di te, in questo caso può essere un genitore, qualcuno che non c'è più, che ha lasciato dentro di te delle radici forti. Questa la copertina della canzone, quindi è molto esplicativa di questo concetto, cioè questo uomo le cui radici affondano nella terra, no? Le radici sono un prolungamento della barba e affondano nella terra. Questo è quello che ho detto a Cisco e Francesco quando ci siamo conosciuti. Ecco, ci siamo conosciuti, gli ho parlato di questa canzone come di altre, sono rimasti molto colpiti, affascinati, e poi una volta ascoltata hanno detto: beh, ma facciamolo, cavolo, sì, dobbiamo farlo. Ecco, quindi da chi è nata l'idea di questa collaborazione? È stata una tua proposta? Loro hanno sentito e si sono lanciati? È stata una mia proposta, perché devi sapere che io sono, diciamo, sono cresciuto proprio con i Modena tra gli altri gruppi, ma i Modena sono stati proprio un capostipite della mia crescita musicale, della mia adolescenza. E questo appunto, naturalmente adesso Cisco è da anni ormai è solista, però la sua voce è rimasta dentro di me, insomma, come una di quelle voci proprio narratori, uno di quei narratori sublimi, diciamo, vuoi proprio per il timbro vocale, il suo modo di cantare. E quindi quando sono andato a un loro concerto durante un tour Combat Folk, ho beccato tutti e due, sia Cisco che Francesco. L'idea è partita da me. E poi da lì è nata proprio un'amicizia, cioè ci siamo, poi la chimica deve scattare, no? Come tutte le cose, ci siamo stati molto simpatici l'un l'altro e abbiamo iniziato ad ascoltare delle nostre composizioni, e in media non si dica, ci siamo ritrovati in studio e abbiamo registrato questo brano. Fantastico, tra l'altro Cisco e Modena sono un po'... per tutta la gente, poi facciamo parte della stessa generazione, quindi insomma ce li portiamo dentro, c'è poco da fare. Questo brano, La terra dei miei figli, prevede o prevederà anche un videoclip. Ci puoi dare qualche anticipazione su quello che succederà? Certo, il videoclip è stato girato nella giornata stessa in cui abbiamo registrato, quindi per metà in quella giornata, quindi sarà un estratto di quella giornata in phonoprint, le riprese interne. Quelle esterne ho realizzato un altro piccolo sogno, insomma, ecco, in questa canzone, con questo singolo ho realizzato due piccoli sogni, piccoli grandi sogni. Uno è quello di collaborare con loro, che sono stati proprio i miei idoli dell'adolescenza, e due di girare un altro video in Sila greca, una parte della Sila calabra, per l'appunto calabrese, che è l'altro piano della Sila che si conosce poco e che io ho voluto far conoscere un po' meglio attraverso questa canzone. E la protagonista è una mia grandissima amica che diciamo sussurrerà proprio ad un cavallo selvaggio una storia e cercheranno di trovare complicità e confidenza per affrontare una corsa, una galoppata insieme in quello spettacolo, in quello scenario fantastico che è la Sila greca. Bellissimo, allora non vediamo l'ora di vederlo, per l'appunto. Uscendo un po' da questo singolo, allora, il 2020 non è proprio un anno bellissimo per nessuno, in particolare per la musica, ma tu sei riuscito comunque ad avere degli importanti risultati. Come è andato quest'anno e com'è anche lavorare nella musica in questo 2020 così tragico? Mi fai una domanda fantastica, perché io ho avuto due momenti molto importanti negli ultimi 5 anni. Uno è stato appunto The Voice, che mi ha scombussolato l'esistenza, diciamo, no? Perché quando uno va per partecipare in un match e si ritrova, insomma, così come mi sono ritrovato io, chiaramente, da artista di strada, è stato un po' un'esperienza molto particolare. Beh, diciamo che poi dopo 5 anni scatta una pandemia ed io mi ritrovo a vincere Musicultura. E questo mi fa pensare che la mia vita, i traguardi della mia vita, senza difficoltà non si possono raggiungere. Come dicevi tu, è un anno molto difficile per noi, per tutti i musicisti e quelli del settore, perché davvero è difficile andare avanti, cioè si fa proprio fatica a immaginare un futuro in questo momento. È già un anno che non si lavora, che siamo fermi, e quindi questo inizia a preoccuparci adesso in maniera vera. Prima c'è stata questa prima bruciatura e l'abbiamo affrontata bene. Adesso che si sta un po', come dire, nella mentalità popolare sta diventando proprio normale, che non si facciano concerti, questo un po' mi preoccupa. Comunque si andrà avanti. Vi sto vivendo quest'anno come un sogno, perché da una parte c'è questo disastro in giro per il mondo e dall'altra vedo che per certi versi artisticamente, non so se è un caso, ma io ho trovato le migliori collaborazioni degli ultimi anni, forse della mia vita. Cioè sto fraternizzando con delle persone che ho sempre visto come degli idoli e stiamo vivendo la musica con maggiore verità. Ecco, spero che la musica torni con una verità nuova, ecco, e che la verità sia proprio l'unico messaggio della musica stessa. Settembre sul mio viso, ballano i fili d'erba all'orizzonte, abbraccia il sole sul tuo lago, scivola il mio respiro, i boschi si preparano a dormire e sento il cuore battere di fronte all'imbrunire, l'altopiano entra nella mia mano. Ho seminato un campo di ricordi e di miraggi, amore mio. C'è un tempo per partire, un altro per tornare, adesso lo so anch'io. Ma non c'è buon consiglio per un navigante perso in mezzo al mare. Portami via come sai fare tu, dove si può sorridere senza dover nascondere questa malinconia. Portami via come sei solo tu, così che possa credere che ancora sia possibile rispondere come sei bella terra mia. Sul mio viso nell'ombra i pini giocano a nascondere la luna sul tuo lago, è dolce il mio respiro, si accendono le stelle all'improvviso, le storie intorno al fuoco, il vino, un brivido alla schiena, piano piano incontro la tua mano. Non sono certo un santo, ma non ho nessun rimpianto, amore mio. Lontano dal mio nido, ho rispettato ogni cultura ed ogni Dio, ma in nessun posto ho mai dimenticato dove fosse la mia casa. Portami via come sai fare tu, dove si può sorridere senza dover rincorrere questa malinconia. Portami via come sai solo tu, così che possa credere che ancora sia possibile rispondere come sei bella terra mia, come sei bella terra mia. Hai parlato prima di The Voice, tu vieni appunto dalla musica anche di strada, poi io mi ricordo personalmente di averti visto in giro in Via Indipendenza col violino, un trio di musicisti, hai formato anche la band L'Avanguardia insieme a altri due ragazzi, insomma sei passato dalla musica di strada, possiamo dire, dei piccoli locali anche di Bologna, a The Voice. Com'è nata l'idea di andare a The Voice? Ma io avevo fatto un provino da qualche parte a Roma, poi questo provino girò e mi chiamarono attraverso questo provino, e mi chiamarono da lì, ma mi chiamarono anche dalla redazione di Amici. Io rifiutai entrambe le chiamate. E poi, proprio in quel periodo andavamo forte con la band, con L'Avanguardia, e quindi i miei primi interlocutori erano loro. Alla seconda volta che mi chiamarono dalla redazione di The Voice, i ragazzi mi dissero: ma insomma sei scemo se non ci vai, nel senso, male che può andare, vendiamo il concerto poi a qualche centinaio d'euro in più dopo una prima puntata se fai un'apparizione. Insomma, alla fine mi convinsero, però io non ero convinto, e infatti aneddoto che durante il mio percorso a The Voice si raccontava spesso, perché dicevano: ti abbiamo corteggiato tanto. Beh, io non penso di essere stato uno proprio tagliato per la vittoria di un talent, sono stato un caso particolare, perché non penso vocalmente di essere un cantante, come si possono definire cantanti quelli che dedicano la vita al canto e a studiarlo. Sicuramente cerco di entrare fino in fondo alla canzone che canto, a quello che sto suonando, ma quella è un'attitudine personale, quindi forse quello arriva. Allora, come comunicatore me la collo anche, come cantante non penso di essere proprio il disegno perfetto di ciò che ci si aspetta da un talent. È stato tutto molto strano passare dalla strada alla televisione, portando però la strada nella televisione, perché poi io a The Voice ho avuto la fortuna avere una squadra che mi ha permesso di suonare proprio la chitarra. Io dai live show in poi fino all'ultima puntata ho suonato sempre la chitarra, cioè, e l'ho suonata proprio come la suonavo quando suonavo in strada. Mi ricordo in particolare la prima versione di The Scientist dei Coldplay, fu proprio chitarra e voce, così come Emozioni di Lucio Battisti, suonata chitarra e voce fino a più di metà canzone. Quindi sono stato fortunato, nel mio percorso. Fantastico. Tra l'altro, poi questo talent è stato un po' un trampolino che ti ha portato anche in giro per il mondo, perché sei stato in Bielorussia, in Russia, in Australia, chiaramente un po' in giro per l'Italia, ecco. Beh, certamente è stato nel mio curriculum ha rappresentato poi un elemento determinante, perché magari, sì, alcuni ti avrebbero chiamato lo stesso, ma parliamoci chiaro, il fatto di aver vinto The Voice, che è un format internazionale, c'è cioè anche da loro, sono The Voice, è presente The Voice Australia, sì, questo ha vinto The Voice Italia, ah, ma che bello, pensa che in aeroporto mi fermarono, mi perquisirono, poi mi feci vedere la fotografia su Google, e dice, guarda, io sto andando a cantare ad un festival, al Festival di Carlton, e questi non ci credevano, poi il signore, uno dei poliziotti, scrisse su Google, uscì subito la mia fotografia connessa al mio nome, e si convinsero e mi lasciarono andare, cioè ecco, in questo caso mi ha aiutato parecchio avere un paio di foto indicizzate su Google. Beh, ottimo, dai. Ci parlavi prima di appunto queste collaborazioni che hai avuto con Cisco e con Friday, Modena City Ramblers, ma quali sono un po' in generale anche le influenze nella tua musica, nel tuo modo di fare musica? Nella mia vita un momento determinante è stato quando avevo 14 anni. Mio padre mi regalò questo album dei Creedence Clearwater Revival e uno dei Deep Purple, ed era il Made in Japan. E, ecco, quello fu un momento determinante perché attraverso i Deep Purple, vabbè, eravamo in quell'hard rock che a quell'età ti salva la vita, insomma, ecco, per certi versi, è proprio un canalizzatore di energie. Però i Creedence avevano uno spettro più ampio di influenze musicali, e quindi c'era il country, c'era blues dentro, c'era la ballad, c'era il rock and roll, quindi per me loro sono stati davvero determinanti. Da quel momento in poi ho iniziato ad ascoltare di tutto, così come mi piace suonare di tutto, quindi in particolare le musiche tradizionali, ecco, dei vari posti del mondo. Mi piace molto la tradizione musicale di un popolo, però ripeto, la musica è bella tutta, quindi è vero che io ho un particolare senso per il folk, per il rock e per il blues, però ho suonato musica balcanica per anni, quindi le influenze sono davvero troppo varie, non saprei neanche dirtele tutte. È un'influenza a 360 gradi, quindi va benissimo così. Allora, prima di salutarci, ti chiederei semplicemente se, visto che adesso chiaramente a fine intervista faremo ascoltare La terra dei miei figli, il tuo nuovo singolo, se vuoi lanciarlo tu con un saluto a Radio Città Fucico. Certamente. Ciao a tutti gli amici di Radio Città Fucico, io sono Fabio Curto e questa canzone che state per ascoltare si intitola La terra dei miei figli. Ho aspettato così a lungo che arrivasse il mio momento, così a lungo che ho fatto il pelo bianco. Ho piantato le radici saldamente in questo posto e ho passato i pomeriggi a maledirlo. Ho raccolto troppo presto le provviste per l'inverno e l'inverno ora tarda a farsi largo. Ho cantato per non dimenticare la mia voce, quella voce che piaceva solo a te. Ho cercato di far sì che il tuo ricordo mi donasse quella forza di cui non so più il sapore. Gli anni sembrano minuti quando rimaniamo soli, ma la notte a volte no, non passa mai. Fiori in mezzo al campo, sorridendo alla fragilità dell'attimo. Gli ho insegnato quei valori in cui noi credevamo insieme. L'esperienza vale sempre uno spavento. Ho cercato di far finta che l'assenza fosse un'altra vicinanza da accettare con dolcezza. Ora che sono lontano, guardo ancora quella quercia. Sotto quella quercia ho chiesto la tua mano. Sotto quella quercia avevi scelto me. Ed il vento corre, ed il cuore Sogno ancora i tuoi capelli che mi passano sul volto mentre annusi le foglie di castagno. E ti guardo sorridendo mentre il velo dell'inverno si abbandona leggero dal tuo fianco. Sogno ancora quei silenzi dentro ai quali c'era tutto, tutto quello che serviva in quel momento. Gli anni sembrano minuti quando rimaniamo soli, ma la notte prima o dopo passerà. Ma la notte prima o dopo passerà. Ed il